dopo aver scuoiato, cioè dopo aver recuperato una, come si chiama, nutria di fiume, un ratto di fiume? Credo che le nutrie non esistessero ancora, quindi alla fine era un topo ragno. Topo ragno. Ce l'abbiamo chiamato nutria, ma non è vero. Gatta, ciao gatta. Bellissimo. Oh, mi sta pulendo. Cazzo, sono stato distratto. Certo. No! Guarda che sei confusa. Sì, sì, e dopo aver trovato questo topo ragno e averlo scuoiato, lo abbiamo studiato e siamo arrivati alle conclusioni di cui non mi ricordo. Ci sta, non era così importante. Erano abbastanza importanti, ma non me ne ricordo. Conclusioni, no, però, non conclusioni, cioè, in verità, abbastanza interessanti. Ma vabbè, detto questo, si apre una piccola parentesi sul marito di Adone, che si chiude abbastanza velocemente. Dopodiché inizia, diciamo, beh, raga, ora di andare a pranzare, perché siamo usciti per questo, noi abbiamo fatto tutt'altro, andiamo a pranzare, bene. Iniziamo ad incamminarci. E appunto, camminando, vediamo alle nostre spalle, non mi ricordo, cioè, vabbè, stiamo andando avanti, finché non troviamo un tipo mezzo nudo, e dico in verità nudo, perché sostanzialmente aveva un pezzo di stoffa che lo copriva, nemmeno, quindi nudo, un tipo nudo, con una coperta sulla spalla, che sta osservando appunto da quest'albero il tempo in lontananza. Allora diciamo, ma bro, tutto a posto, cioè tipo Adone voleva, o per tutto voleva andarsene, tirare dritto, ignora, eccetera. Però giustamente tutto il resto del party dice, boh, investighiamo. Natalia, gli ho solo insultato io. Raga, mi sa che mi ha dato il magnesio sulla lingua. Smettiamo di giocare con la scatola di magnesio. E... continua, per favore. Appunto, dopo un po' che ci parliamo, capiamo che non è di questa epoca e tutti capiamo che è Cronos. Ed in particolare ci arriva ben dopo, ma questo non è importante. Hai detto Eddie? Sirio, perché Medica prima mi ha chiamato Eddie, ragazzi, io adesso mi chiamo no, Sirio. Pensavo parlassi di Adone, di Toon Earl. Io. Ah, io, ok, io. Scusami, sono io deficiente, no. Che pensavo parlassi del personaggio durante il recap. No, Adore, vedi che l'abbia anche capito, io ci ho messo un po' di... Ok, ci sta. Dopo sta che interlochiamo con Cronos, che giustamente ha un sacco di domande e che lui vuole raggiungere il tempio per andare, cioè, scavare e andare nei rimasugli dell'antico tempio per parlare con Arva. Noi siamo tipo, bro, cioè, Adore tipo, boh, non lo so, bro, magari meglio di no, magari stiamo qua a seguire, gli altri dicono, no, let's go, ski, ce ne andiamo. Decidiamo, letteralmente, let's go, che abbiamo detto. Sì, esatto. Di dividere un attimo il gruppo, anche per andare a recuperare dei vestiti per sto povero cristiano, perché farlo girare così anche no. Quindi Adone rimane in compagnia del gran bello simpatico Cronos. Ah, tra parentesi, Cronos odia le donne, quindi odia Mif. Mi sembrava giusto. Sì. Vabbè, è la tua lettura di questa cosa. Allora, Cronos non è che odia le donne, semplicemente è misogino perché in questi tempi si era misogini e le donne non avevano diritti, quindi... Farete la canzone perfetta per parlare di misoginia. Ogni volta che viene menzionato Cronos c'è questa canzone. Basta, è diventato il suo tema. Esatto. Dio mio. Andate pure avanti. E Adone e Cronos hanno una conversazione su varie cose, anche sui treni. Però gli altri non so di cosa abbiano parlato, perché io sono andato a dormire, quindi... Siamo solamente andati a... A prendere il cibo. A prendere il cibo, e in realtà siamo... È una veste. È una veste, abbiamo preso lo shawarma, tutti insieme, e... Mentre mangiamo lo shawarma abbiamo incontrato il prete di... Mi stai guardando il nome della... No, come cazzo si chiamava? Bama. Esatto, Bama. Bama l'amore. Sì. Chi aveva la capra da assistenza. Esatto. Sì, era la capra. Era la capra da assistenza. E niente, visto che non stavamo incamminando. Sì, abbiamo parlato con lui del più del bene, in realtà niente di trascendente. E zitto, mi pare. siete ricongiunti e finita lì la storia. Sì. Io ripartirei dal momento in cui vi reincontrate e quindi vi faccio la scena. Siete dati appuntamento di rincontrarvi dove l'avete visto la prima volta, quindi sul lato nord-occidentale della collina su cui sorge il tempio di Diru, e ci sono degli alberi. A nord di questo posto c'è un bosco fondamentalmente, e a sud c'è... Ah no, col cazzo, scusate, no, Pjanic, fermati, una cosa importante abbiamo saputo. Niente, è di non ha letto. Cosa dilla tanto ormai quando torna? È quella della statua che dovevamo andare in accademia per non mi ricordo più cosa. Ah boh, voi dovete andare in accademia a contattare il vostro... No, no, no, no, no, no, no. C'era un motivo di trama, per sì. Non solo per Deimos. Abbiamo parlato con il sacerdote, ce l'ho detto. Tanto lo dovete spiegare ad Adone. Infatti, ma non mi ricordo... Posso dirti che se non te lo ricordi è figo per la trama? No, no, è una cosa che mi così ricorderebbe, porca puttana, sì, sono io sarà scemo. Trust me on this one. Okay, siete in questo posto promontorio nord-occidentale della collina, dalla montagnetta su cui sorge il tempio di Diru, Diru Apeira. Adone e Kronos sono appoggiati, cioè Kronos è appoggiato a un albero, Adone decidi tu come è messo, che stanno guardando nella vostra direzione, quindi verso sud-ovest per vedere quando sarete arrivati. Ci sta. E loro arrivano col cibo. E la veste. Sì, con dei vestiti di ricambio. Prego. Okay. Vuoi delle pite? Beh, mi fa tipo... le tira fuori dalla borsa e te le porge. Chi è il soggetto? Adone? Adone. Ok. No, okay. Delle cosa, prego? Delle pite? Delle pite! Sembrano qualcosa fatto di pane, non ne ho la minima idea, sono buone. Credo che abbiamo mai mangiato una pita. No, no, no, infatti non... Infatti, e allora dico... Ok, prende in mano. Qual è la sensazione? Allora, sono appena fatte. Comunque è il tempo che ci ha messo a camminare fin qua. Quindi sono fragranti, hanno un profumo di oggetto panificato intenso e sono molto morbide sotto il sottile strato croccante esterno. Si strappa un pezzo e lo mangia, direi che lo ingioia come sapore. Sì, sì, sì, non è troppo distante dalle cose che sei abituato a mangiare, quindi è buono. Buono, buono. Lo mangio e dice buono, non l'avevo mai assaggiato. Sì, neanche io, non me l'aspettavo, ne ho già mangiato uno venendo qua. C'è anche la carne e indica chi è che ce l'aveva, ce l'avevi tu, Nibel? Sì, c'era lui, che c'era lo zaino. Esatto, esatto, c'è anche la carne e indica Nibel. Adone, a quel punto credo che, non so se ci sono dei fazzoletti, però nel caso sì. C'è il tuo? No, non volevo usare il mio fazzoletto. No, perché volevo porgere della... Allora Adone prende un'altra pita, la porge a Kroll e dice scusami se te lo passo con le mani sporche. Nessun problema. Le fanno in modo diverso dai miei tempi. Sì, ero proprio curioso di sapere come erano i tempi. Sono passati giusto 2000 anni. Riesco a sentire che il grano è alterato. Nelle coltivazioni hanno iniziato a usare la magia? Non proprio, non direttamente almeno. È comunque... forse una specie di grano diversa da quella che mangiavo io. Comunque... L'uomo fa selezione sia degli animali che della vegetazione. Quindi è probabile che... la specie di grano che mangiavi tu ai tuoi tempi non sia la stessa che c'è ora. Sì, sì, qualcosa del genere. Carne quella? Sì, deve essere buona. Di che animale? Non lo so. Bella domanda. Montone? Pollo? No, non lo sapete? Non lo sapevo. No, però è buono. Comprensibile. Era più la mia curiosità per quali animali allevano oggi. Ho visto che in città non usa più avere il bestiame in giro. Penso sia un fattore di igiene da molto tempo. Fattore di? Igiene, pulizia. Non ho capito. Diciamo che nella società di adesso gli animali vengono visti come sporchi e quindi vengono tutti separati dal resto della società. Ma te li infili in bocca? Sì, ma quando sono vivi. Secondo voi è più pulita una cosa morta che una cosa viva? Se è trattata bene, sì. Non avete mai squagliato, diciamo di sì. Non avete mai lavorato delle pelli ai vostri tempi, cucinando la carne, robe del genere. Sì, sì, però gli animali coesistevano con le persone, non era un problema averceli in giro. Ogni tanto si fa ancora. Abbiamo visto un sacerdote del posto che va in giro con la propria capra, ma non è più cosa comune. Generalmente gli allevamenti sono fuori dalla città. Sacerdote con la capra? Scusami se ti interrompo. Sì. Che divinità? Vama. Della dea dell'amore, Vama. No, non mi dice niente. Strano. Che nuova anche questa? Sì, la dea dell'amore con la capra e quelle stronzate lì era Afros ai miei tempi. Magari come non mi sono cambiati? Esatto. Può essere. Alla fine i nomi non sono così importanti. Mif? Ritorno in character, scusate. Alla fine i nomi non sono così importanti. Immagino avremo tempo di osservare il tutto. Devo indossare gli abiti che mi avete preso, immagino? Sì. Taglieli dietro. Gli aggiungo... Gli porgo gli abiti, tipo... Gli vanno. Tu sei più grosso di stazza, però lui è più muscoloso, quindi gli vanno, sono giusti, non sono stretti. Addirittura è più grosso. Sì, sei più alto. Lui non è altissimo, è 1,70 something, 75, 76. E però è, cioè, fisicato. Okay. Più di un twink, meno di una persona che fa che solleva cose vere. Ok. Mentre... Una persona normopeso, ovviamente. Sì, cioè, sì, normopeso però senza grasso, cioè solo muscolo. E invece Lieto è grosso. È un Adone greco. Double, questo è triple entender. Una volta che lui si è rivestito e voi vi siete rifocillati, ditemi voi se volete fare qualcos'altro in mente. Eddie, stai per dire qualcosa? No, niente. Adone aveva sorriso, ma cioè per un commento classista. Non mi ricordo che cazzo sto dicendo. Scusami. Era ah che... sì, gli ha fatto ridere il sacerdote che va in giro con la capra. Così. Ma nemmeno classista. Secondo me questo è proprio razzismo pulito. Sì. Cioè, i tedeschi no! Che odiano tutti gli altri. Ma capito perché dico? Ma secondo me Adone, che è comunque... nobiltà, cresciuto sì, sì. Del genere, dai, gli viene da ridere queste cose. Poi non è l'uomo più razzista del mondo, però non lo so. Lieto è qua con noi, tra l'altro. Lascia fare, lascia fare. E comunque, il nostro Cronos si riveste mentre che mangiate. In giro si veste lì davanti a noi? Sì, sì, sì, non si fa nessun problema. Perfetto. E anzi commenta sul fatto che forse al matrimonio avevo dei vestiti così stretti. Il tuo? Sì. Gli abiti erano molto più larghi e più adatti all'attività fisica, qualunque essa fosse. Quale matrimonio? E ormai credo che lei sia morta da un po'. era una giovane sacerdotessa, eravamo coetanei. Solo una, conoscendo le tue opinioni sul tempo moderno, mi aspettavo che avessi tipo 15 mogli o qualcosa del genere. No, eravamo... Mi sono col cibo. Era comunque una società monogama, anzi provavamo un forte ribrezzo per gli anziani che avevano numerose mogli. Certo, se la moglie muore poi la si cambiava, però a parte che è morta dopo che sono finito nella palla. Questa volta è Adone quasi a soffocare nel cibo, comunque. Ma... Come ci sei finito nella palla, a proposito? Non ho degli ricordi chiarissimi. Credo che in un colpo solo siano riusciti a disconnettermi dal dio del tempo e in quel modo a sigillarmi. Chi? Ottima domanda. Se l'avessi saputo, non credo che sarebbero riusciti a farlo. Ricordi? Magia del tempo. Se siete pronti, io andrei a visitare il tempio lassù. Sai che potrebbero avere da ridire sul tuo scavare sotto il tempio, vero? Come intendi gestire la situazione in caso? Se le mie teorie sono esatte, c'è un passaggio per arrivarci. Non è solo come ultima spiaggia, ci metteremo a scavare. Ok, però non è detto che l'accesso sia libero a tutti. Oh, in quel caso è facile, li ammazziamo. Non credo che sia particolarmente accettato nella società moderna uccidere la gente a caso, lo sai? Ah, per un'ottima ragione, sto cercando di venerare la mia... giusto. Magari troviamo... Un cerchiamo di capire se c'è questo, se c'è questo passaggio prima di tutto e poi da lì andremo a trovare un modo per... Esatto, e se ci sono persone posso sempre addormentarle. Bel trucco. Magari... Perché... Sì, sì, ti avviso prima. Così non scaglierai altre folgori. Finché abbiamo metodi di coercizione, per me non ci sono problemi. Non vorrei che ci siano vittime tra la gente che non c'entra niente. Stiamo andando in un tempio, in quel caso. Non credo siano innocenti. Esatto. Immaginiamo. In ogni caso non farei patire le pene dell'inferno. Lui prende una direzione a cazzo, se non gli indicate la strada giusta. Ma no, lo guidiamo, dai. State l'altro. Nibel sa che c'è una scalinata. Voi forse l'avete vista? No, seguiamo Nibel, ci fidiamo. Sì, li conduco io. Ah. La scalinata si vede che è antica. Perché non rispetta nessuna norma moderna su come dovrebbe essere strutturata. Gli scalini sono altissimi, rispetto a quanto dovrebbero essere alti gli scalini, ed è una scalinata unica che fa il giro di un lato della montagna. Quindi è estremamente faticosa, non ci sono i pianerottoli per riposarsi, non c'è un cazzo. E Kronos lo fa senza problemi. Direi che voi mi descrivete come la gestite sta cosa? C'è nessuno in questo momento, forse anche perché il cielo è brutto e sta per piovere. E lieto sali facendo gli squat. Show off. Sono così, cioè così tanta la differenza di step? Sono 20-25 centimetri. Cioè... Oissa. Esatto. Sì, anche Mif li prende con calma. No, anzi, sai cosa, capo? Io ho finito il mana per oggi, vero? C'hai uno di mana, credo. Sì, c'hai uno. No, era per fare Enhance Ability, mettermi più agile, però... Lo puoi fare con l'Imana Penny, forse? Davvero? A vedere... Con i pochi soldi che mi mangono faccio sta cagata? Se a qualcuno di voi serve una mano posso portarne un altro. No, non puoi, non puoi, scusami. Se c'è l'altra abilità che è sposare con i manapenni, questa qua no. No, allora, se c'è Dadone, vedete che fa... Noi! Sarà uno scherzo. Semplicemente fa un passo e poi si... Se proprio proprio fa leva, si spinge mettendo la mano sul ginocchio e via così. Dice qualcosa... Il dottore non commenta. Si va avanti facendo fatica, cosa devo dire. Miff che alta un metro e un cazzo? Miff penso che faccia fatica, le prenda con calma, tipo l'ultima della fila, tranquillamente. Dentro sta morendo, ma deve apparire forte. Ci sta. Però la sua facciata cade. Sta morendo. Ok, Nibel immagino non abbia problemi. Nibel sta più Nibel... Non c'aveva un piede nella fossa con i polmoni, Nibel, però. Sì, sì, quindi... sì. Ho fatto il minatore per tutta la vita, cioè. Penso che sia comunque superiore ad una persona normale. Sì, sì, sì. Oltre ad essere 2,13 metri di Cristiano. Esatto, quindi cioè, per te sono scalini normali, forse. Sono scalini normali, sì, sì. Arrivati in cima, vi colpisce il fatto che sia veramente alta sta cosa. Cioè avrete fatto 700 scalini, cioè una roba fuori dal mondo. Dio mio, ma quando ci mettiamo? Altissimo, cioè ci mettiamo anche un po', cioè. Sì, sì, sì, sì, perché poi andate pianino, quindi ci vuole un po'. E alle vostre spalle vedete dall'alto il nord della città, che sarebbe Kainoe, il quartiere dove eravate col Tempio del Dio del Sole. Che è un quartiere nuovo, quindi per quelli di voi che vengono da città moderne ha quel look lì, cioè grandi palazzi abbastanza vicini tra loro, pochissima vegetazione, qualche albero qua e là. Un po' più in qua ci sono le montagne, quindi vedete il fiume che, vabbè, scende dalle montagne e poco altro. Non è, cioè, è un panorama tipico della Grecia rurale, ma non è così interessante. Ma quando superate l'ultimo scalino, vedete l'altro lato, cioè vedete il piano su cui poggia il tempio, e oltre di quello si vede il mare. Si vede quindi tutta la città portuale, che è bellissima, il mare che è mosso, ci sono le onde molto alte perché sta per arrivare o una brutta pioggia o una simpatica tempesta. E sempre nella solita direzione intravedete una costruzione diversa dalle altre, nera, con 5 colonne intorno. E se andate, se guardate ancora, c'è il tempio con tutte le colonne intorno che lo circondano, e fra le colonne dovreste riuscire a vedere la centrale di mana, che non supera il tempio rispetto al vostro punto di vista. Quindi lo vedete attraverso le colonne che... Ora, ci sono alcuni edifici qua, sono tutti bianchi, tutti di epoca pre-età sacra, quindi prima dell'anno 1000, alto medioevale. E il tempio principale è rettangolare, è enorme, gigantesco, tenuto da Dio, perfetto. In cima ha tutte delle miniature che decorano la parte alta, quindi la parte in cui le colonne si attaccano al tetto. E ci sono numerose entrate, è come se fosse un tempio sempre aperto. Davanti all'entrata principale, che è a est, quindi alla vostra sinistra, c'è una cesta molto grande, 4 metri di cesta di vimine intrecciato, e per il momento non c'è altro di interessante, sembra che non ci sia nessuno qua. Penso che è salito l'ultimo gradino, Miffa si tipo mette le mani sulle ginocchia e cerca di riprendere un attimo il fiato, no? La vedete che è quasi stravolta e fa, mai più. Ah sì, un minimo di allenamento però, donna, E si mette a fare tipo due flessioni. Biff ti guarda malissimo e fa, parla quello che si è fatto una dormita tutta da un pezzo. Avrai allenato il fisico, ma la mente fa un po' schifo. Ma solo una cosa importante, riflette il bicipite. il mago più normale della Zenith. Veramente. A me è più normale e si gode il paesaggio, effettivamente. Osserva, guarda, vedete, è bello felice. Si vede casa mia. No, aspetta. Tanto cazzo ci vedi bene. Scusa? E dico, avete sete? E porgo la fiaschetta con il liquore dentro. Mi la prende subito, tipo, non penso sappia il liquore, però. Quindi si mette un attimo a tracannarla. Poi ti vedi che gli arrivano le lacrime agli occhi. Te la riporge lentamente. Sentite un gulp potente. È tipo assenzio, cioè, una roba incredibile. Allora, cioè, la vedi proprio con gli occhi rossi. Che... Grazie. Posso un sorso anche io? Prego, prego. È quasi finito, se volete finito. La tracanno di botto e gli restituisco la fiaschetta vuota. Ciao. La fai agio al mattino. Sì, capito, fuoco liquido. Una roba boh. Era acqua quella? Vedi, sì, che fa così. Bello. Meglio che non ho bevuto allora. Almeno rimango fresco. Mio Dio, che cazzo ti bevi? Si batte un attimo il petto, si sistema la giacca, come cazzo si chiama, la camicia. Fa... Ok, ci sono. E tutto questo il nostro caro Kronos ci sta aspettando. Sta guardando un punto fisso. Che per voi è una colonna. Cioè non sembra stia guardando qualcosa, però è proprio focused. Odone si avvicina un attimo a Kronos e gli dice: Vedi qualcosa di interessante? La sacerdotessa di Diru è una donna? non saprei. La limitata, strano. Quando ero, cioè, era una mia avversaria, era un uomo, o una via di mezzo, quantomeno. Strano, sì, no, ma devi sapere che abbiamo anche le macchie adesso per cambiare genere. Devi... Ah, sì. Senza magia del patto? Senza nessuna magia. Metti questa, gli dà un malabenny e fa il suo lavoro. Come sempre. La te l'aveva già visto un malabenny. Esatto. Da uomo a donna. Così. Senza problemi. Non ne capisco l'utilità. Lo possono fare tutti, I guess. Anche le donne. Una donna è uno stato... dell'anima, non del corpo. Sì, però in questo modo le persone che vogliono cambiare anche il proprio corpo possono fare. E così possono avere figli, se vogliono. Non ci avevo pensato. In caso di guerra, se dovesse servire, puoi averci più donne. Sì. Forse non so se è quella la prima cosa a cui penserei dietro. No, però... meta è quella a cui hanno pensato quelli che l'hanno inventata. Grazie per averlo chiesto. Non avevo dubbi che le... Oh, perché viviamo qua, cazzo? Ritorno. Fare esplodere l'impero. E avete fatto un sacco di passi avanti democratizzando la magia, ma... Sì, ritengo comunque che sprechiate le capacità che vi sono state date dal tempo. Dal tempo wink o dal tempo... 2000 anni e avete creato questo. E indica la città. I guess. Sì, non è la più bella delle città, effettivamente. Occhi che è molto più bella. Non so nemmeno dove sia. A nord. Molto a nord. Gli scati hanno le città? Oh, yes. Veramente il mondo al contrario. Fate strada voi? Non vorrei rompere l'etichetta anche con la sacerdotessa. Etichetta. Che etichetta ci dovrebbe essere? Lo so, tu lo sai! Non credo che Cronos voglia trattare la sacerdotessa come ha trattato te. Non per rispetto. Ah, quindi fa anche preferenze, interessante. Capito qua, il vecchio pazzo. Non soffermiamoci su queste piccolezze. Tipo mi fa un sorrisino come per dire... Dai, che lo ammazziamo dopo. E va avanti Adone, fucking guess. Ok. Sì, mi segue. È palese che l'entrata principale sia quella dalla cesta, però puoi entrare da dove ti pare. Dalla cesta? Cioè devo entrare in... Cioè con la cesta di Vimini? No, davanti all'entrata principale c'è una cesta di Vimini enorme. Ah, ok, sì. Scusa, avevo capito, ma dove entrare? No. No. Instruction unclear. Dick got stuck. The cylinder must not be out. Ci stavo pensando. E così devo portare questa croce per sempre. Sì, vado, entriamo da lì, direi. Ok, ti colpisce, nel caso non sapessi questa cosa, che la cesta è piena, non fino all'orlo perché comunque è mastodontica, però è bella piena di soldi. Okay. E non sto parlando di manapenny, ma monete di metallo. Ok, fammi un refresh. Quanto vengono utilizzate adesso le monete di metallo, effettivamente? Vengono utilizzate molto nelle città che sono troppo lontane da una centrale di mana per poter avere una quantità di mana penny sufficiente. E man mano che ti avvicini alle centrali diventano sempre più rare, finché in città ce l'hanno solo i collezionisti, cioè i fissati di numismatica. Okay. E, praticamente... Però... Tu, cioè, in modo molto realistico, non hai mai visto una città dove non ci sono manapenny. Perfetto. Vabbè, mi sorprendo un po' delle monete, ma comunque fino a un certo punto. Mi ricordi che divinità si venera qua? Diru, la dea del commercio. Diru, la dea del commercio. Vabbè, ha senso. Vabbè, andiamo dritto per dritto. Ok. L'ingresso è... Boh, hai presente il Partenone? È fatto così. Ti mando una foto se vuoi. Vai! Non ho mai visto il Partenone. Sono un botto di colonne. Devi passare in mezzo a due colonne a scelta, perché poi sono tutte equidistanti. E c'è un'apertura rettangolare che porta dentro al tempio. Ora, il tempio in questione si vede che è invecchiato, nel senso che nell'epoca di massimo sfarzo doveva avere qualcosa che copriva alcune parti del muro, cioè si vede che alcune parti hanno un colore diverso, come se fosse stata rimossa una parte. E se volete fare un tiro di storia vi dico cosa, altrimenti vado avanti. Io sì. Vai, rolla o religion o storia. Quanto hai in storia? 5 più 5. Allora. Rolla la più alta tra religione e storia, che per nel tuo caso è 5. 10 pulito. Erano placche d'oro. Secondo il rito di Diru era di placcare i suoi templi di robe di valore. Cosa c'è che vale più dell'oro? Niente. Lo stesso vale per le monete. Sono offerte alla divinità. E nell'antichità c'era la credenza che tutti facevano le offerte per ringraziarsi la dea, e togliere le monete dalle ceste della divinità era... non era neanche un crimine, era proprio un modo per inimicarsela. Quindi in realtà chiunque poteva andarle a prendere e nessuno l'avrebbe fermato, perché poi ci avrebbe pensato la dea. Questa era la convinzione comune. Infatti non c'è nessuno a controllare questa cesta gigante. Beh, noi sappiamo che tanto le divinità non ci sono. Vuoi fare il mistico furto? Okay. No. All'interno della chiesa, seduta con un libro in mano, c'è una donna, appunto, come aveva giustamente predetto Cronos, e i suoi abiti sono rossi, di un rosso molto intenso, più tendente al viola forse, però comunque molto saturato, ed è completamente coperta d'oro. Ha un numero incalcolabile di bracciali, anelli, decorazioni, fermagli per capelli, tutti di oro. Qualcosa c'ha delle gemme qua e là, ma la maggior parte delle cose che ha addosso sono d'oro, con motivi circolari il più possibile, quindi che richiamano un po' le monete. Sentendoti entrare, alza lo sguardo verso di te. Ok, dico, e sera o pomeriggio, non mi ricordo. E poco dopo pranzo, diciamo l'una. Ok, e allora faccio buon pomeriggio. La donna chiude il libro. Ok. Se vuoi dire qualcosa, dillo. Sì, la donna continua e dice, siamo dei visitatori, non uso la parola turista perché mi sembra proprio sbagliato, quindi siamo dei visitatori che avevamo interesse a osservare il tempio. Ha fatto questa cosa bella di chiudere il libro. Vieni dall'impero? Sì, immagino che il mio accento sia ancora forte. Sì, abbastanza. Turista? Non esattamente, siamo qua, diciamo... In viaggio di studi, e arriva Miff e ti prende tipo per la spalla, così. Sì, stavo per dire viaggio di lavoro, ma effettivamente per me è la stessa cosa. Sì, si avvicina anche lieto. Siamo degli studenti di archeologia. E questo è il nostro tuttofare. Dico Nibel, tipo... Ma dai, non serviva! Sono un ex minatore, li sto portando in giro a vedere le cose. Se dovesse servire della forza, abbiamo lui e lui è il professore. E indico. Fa un cenno con la mano stando zitto. La donna, con uno smirk, dice... Lui lo conosco, capelli rossi, molto alto. La tua famiglia aveva le fattorie... a sud, vero? Sì, fino a un paio d'anni fa. Sì, ricordo. La donna avrà sui 40 anni. È difficile darle un'età perché ha la pelle molto tirata, però non sembra più vecchia di... E poi inizia un... Cosa cazzo è? Please don't. Per favore non farlo mai più, bot. Stavo dicendo cosa deve partire da parte della cava. Mi assurda. Vabbè, Uzox fa un po' quello che vuole. Anarchia completa, madonna. Un bot anarchici. Dicevo. Vi sta squadrando, in particolare guarda Lieto e Mif. E sembra stia sfogliando il libro senza guardarlo. E aggiunge... È raro trovare gente come voi che venga qua. Come vuoi, in che senso? È tipo Mif parla dai denti, hai presente quando fai il sorriso ma continua a parlare. Tu sei Mif Standout. Eh? Sei la figlia di Moira. La signora dei Medikit è famosa per chi si interessa di economia. Quindi sì. Ovviamente, sì. E lui... Sì. Lui ha l'accento di scirocco, la spilla della Zenitai ed è ad Apeira, quindi deve essere ricco anche lui, altrimenti non si spiega come mai uno dei genitori abbia sposato un berber e si possa permettere di far viaggiare così tanto il figlio. Ah. E i commercianti sono sempre ben accetti nel Tempio di Diru. Io non voglio più essere qua, sentitemi perché sussurra. E sorride invece, dice, mi complimento per la sua capacità d'osservazione. Fa parte del mestiere. Come forse saprete, la dea del commercio richiede delle offerte. Quindi sarò lieta di aiutarvi, di guidarvi, se pagherete un obolo. Ho fatto la battuta del cazzo. Si è bloccata la cam. Esatto. La battuta è troppo forte. Ma era proprio Discord, mi sa, anche a me se la blocca. Ah. quando ci siete... No, è partita la causa? No. Sta caricando a me. Sta caricando, ma... Non sappiamo se tra... Loading forever. No, no, adesso ritorna. Forever. Let's make distance forever. Commercio solo in denaro o anche accetta altri tipi di pagamento? Oh, io accetto ogni tipo di pagamento, è la cesta fuori che per tradizione deve essere pagata con le monete. Io guardo un attimo il verso, io guardo direttamente verso niente, non me ne frega più niente. Ormai il tuo sugar daddy, cose economiche, niente. va bene, se proprio bisogna farlo. E Lieto inizia a togliersi tipo i vestiti. No, Lieto, cosa hai compreso? No, no, ho sbagliato. Problema di traduzione, detto... forse? Hai detto i soldi, no. Ok, va bene. Non mi dispiaceva la signora. No. Adone si mette la mano e Adone dice: quello che io posso offrire è più conoscenza o comunque più studi. Un accademico dell'impero. Dimmi, sai da dove viene fuori il morbo che vi sta facendo emigrare tutti verso sud? Che? Adone... Per un attimo e... So da dove è originato. Ah sì? Beh... Sì. Sicuramente possiamo... giungere ad un accordo. Ti tende la mano. Ha lo smalto delle unghie prevedibilmente dorato ed è piena di anelli, così tanto che fai fatica a vedere le dita. Tipo di accordo? Mi dici tutto quello che sai e io vi aiuto con qualunque cosa vi interessi. Mi sembra... un patto un po'... come si dice? Diabolesco? Non mi sorride. No, mi sembra... non so molto, non so così tanto. E soprattutto... soprattutto... No, non vedo perché le dovrebbe interessare. Secondo me sai più di quello che credi. Sì, vede, è molto timido il nostro compagno qui. Avanti, Adone, dai, lasciati andare un po', una signora, qua. Ti sta tendendo la mano sinistra. Ma perché? Non voglio che è stativa, vabbè. E Adone allora sospira, dice, d'accordo, e stringe la alza la mano. Mano. Col guanto? Sì. Come col mai? Guanto, sì. Mi sono ferito ed è meglio che la mantenga coperta la mano per il momento. Devo tirare mentire? Se vuoi sì. Però credo che ti superi lei. Vai. Vai, io... Vai, vai, puoi sempre fare 10. Sorride e non indaga oltre. Ti riporge la mano e stringe forte la tua mano. Feeling you. Ti sta guardando dritto negli occhi. Chinos. Ricambio il sorrisino, Adone. Dice, ripeto, mano delicata. Sì. Fredda. E quindi, questa storia? Riesco sempre in situazioni. Ah, Adone a questo punto dice: beh, abbastanza prevedibilmente la... questa... com'è che viene chiamata la peste? Piaga di bronzo. Piaga bronzo. Puoi andare in bagno se vuoi. We take five intanto che io fixo il blot. Che vado a prendermi da bere. Pensa cosa dire. Scriviti la trama. Ma veramente, adesso me la vado a scrivere. Fa una canzone sola e poi ne spara una a caso. Non so che impostazione gli ha presa per fare così. Strong. Vai, metti il link della cosa, come si chiama, della playlist, oppure stai mettendo le canzoni singole? No, no, c'ho la playlist. Ah. Prova a skipparti una track e vedere se ti passa la prossima, sì, oppure se ne fa una a caso. No, rifatto come prima, mi sa. Che di nuovo... Giovanire, che cazzo è? Solo la quella, eh. Cioè, ma Dio cane, vuoi farmi credere che è finita in mezzo alla playlist? No. Se vado su Spotify non c'è. Ne fa una e una? Mi stacchi. Ne fa una e una? Il bot. Sì. E allora il bot usa la roba di Spotify gratis. No, però questa c'è nella playlist, ma è più avanti. Che va bene, cioè non mi interessa così tanto. Questo è randomico, però. Questo c'è. Allora, boh. È stato divertente, perché sono andata in bagno. Nell'andare in bagno era tutto scuro, non ho le luci accese, perché casa mia la conosco, quindi a posto, penso che tutti lo facciamo. Calcolo male le distanze, sbatto il fianco fortissimo sullo stipite della porta, cerco di aggrapparmi al lavandino, non ce la faccio, cado a terra. E la madonna. Io a quel punto avrei cagato lì. Tanto. Mi sono presa al momento, accasciata per terra, per ridere di me stessa, alzarmi. E poi fare tutto quello che dovevo fare. Cosa? Miff? No. Io, Sara, sono andata in bagno e chiaramente ho le luci spente. Cioè, perché devo accendere le luci quando casa mia la conosco, ok? Ho preso male le distanze con lo stipite della porta. Ho preso col fianco lo stipite della porta fortissimo perché stavo mezzo correndo. Cerco di aggrapparmi al lavandino del bagno, lo manco. Cado a terra. È stato molto divertente. Pianis, mi sento come il fila che è caduto davanti a me mentre gli facevo una foto. Quando vuoi. Sì, Adone. Ma com'è che si chiama la peste bronzea? Sì, piaga bronzea. La piaga bronzea. La piaga bronzea. Allora Adone appunto dice, appunto... Ti pauso solo per dire, ti ricordi quando è scoppiato il Covid che non sapevamo ancora come chiamarlo? Sì. Siamo in quella fase lì, in certo, cui certo. Covid-19, Covid e basta, qualcuno sì. Usa dei termini razzisti, qualcuno dice... Capito, c'erano tutte queste cose un po' strane. E qua è sì, la però mi viene voglia di aggiungere cagate, ma non lo farò. No. Era per farti il punto. Dice... No, allora direi che... Questa piaga bronzea, così adesso la chiamano all'impero, credo che venga chiamata così anche da voi, è probabilmente, quasi sicuramente appunto, nata ad Oclica per via di un ratto magicamente evoluto. Vede, io mi trovavo alla centrale appunto per condurre alcune ricerche, alcune... per la mia tesi, ma anche in parte per raccogliere informazioni per la ricerca di mio marito, appunto, che sta studiando proprio come le centrali abbiano un'influenza sulla flora e fauna locale. Fatto sta che il giorno, appunto, un giorno che sono andato lì nella centrale, abbiamo assistito io e purtroppo i miei altre persone che non sono qui presenti, abbiamo osservato un ratto che possedeva parti metalliche, sia interne che esterne. Il ratto è stato ovviamente disposed of, è stato liberato, però al mio ritorno, dopo qualche giorno, appunto, è scoppiata questa piaga bronzea. Ora, ovviamente, collegare le due cose forse è un po' un salto... non si dice? Volo pindarico. Un volo pindarico. Però mi sembra anche un po' una strana coincidenza, in un certo senso. Che tu sappia, esiste una cura? No. Do not lie. Beh, il ratto sicuramente è stato ucciso e non so quale sia la cura. Io delle persone che si sono ammalate non ne ho, e che si sono trasformate, nessuna si è mai stata curata. Ti guarda dritto negli occhi e io guardo dritto negli occhi te. Non te lo ricordi o stai mentendo? Allora, Adone ha detto una cosa specifica di persone che io ho visto che si sono trasformate, nessuna è poi stata curata. Ok, bel trucco. Rimane perplessa e aggiunge, bel trucco. Avrei giurato che ne sapessi di più. Ti vedo tranquillo dopo tutto, non hai paura di essere infettato? Sì, però se dovessi passare la mia vita, il resto dei miei giorni bloccato, e soprattutto io non ero... Aspetta. Se dovessi passare la mia vita bloccato, non farei molto. E appunto, da quello che so, le persone che si sono infettate, che poi sono morte, era una questione di giorni. Io sono ben oltre i giorni prestabiliti. Pensavo fossi tranquillo perché avevi un piano B, e invece sei solo un pazzo. Ci sta. Un patto è un patto. Cosa vi serve? Vede, il nostro caro professore, e indico Kronos, sarebbe interessato a, appunto... Sa che ci... Aspetta, scusami un secondo. C'è un tempio sotto, cioè quello che ha detto Cronos è che sotto il tempio che c'è adesso c'è il tempio di Arva, giusto? Sì, è la prima volta okay. Che le Nibel ne sentiva parlare. Ok. Nostro professor... Ne avevamo trovato qualche indicazione parlando con le sarte, sì. Le vecchiette, per esempio. Tipo. C'è una leggenda che diceva che c'era un tempio sotto a questo tempio. Cioè questo tempio è stato costruito sopra un altro tempio. Sopra un tempio pagano, mi sembra. Sì. Qualcosa del genere. Sì, il nostro professore appunto ha compiuto, diciamo, alcune ricerche e pensa che sotto questo tempio ne esista un altro di natura pagana antica. E saremmo curiosi di sapere se magari esistono delle cripte, dei sotterranei, un modo per accedere a... sotto il tempio attuale. Mi state chiedendo molto, in realtà. Pensavo di dovervi far fare un tour della struttura, non a vedere i segreti più reconditi di Diru. Ammetto che è chiedere tanto forse questo, però noi... Un patto, però. Sì, e non so se questo può aiutare, però noi siamo interessati solo a scendere, appunto. Non vogliamo... osservare i segreti di Diru. Vogliamo solo un modo comodo e facile per scendere giù, se c'è appunto un passaggio. Un patto è un patto. Ragazzina, mi tieni un attimo il libro? Lo prende e poi si chiede perché cazzo l'ho fatto? E la donna va verso il lato opposto del tempio, facendovi cenno di seguirla. E passando davanti a un muro, fa un movimento con la mano che rivela una porta che non si vedeva, cioè sembrava un blocco di muro unico, invece facendo così si vede che c'è una porta, e la apre e dice: da qui si scende nel seminterrato. Non c'è granché di interessante, secondo me. Potete andare. Sì, molto gentile. Grazie per la sua disponibilità. E mi fa dare un'occhiata al libro. C'è un titolo? C'è qualcosa? Andiamo di sopra un secondo. Vi lascio la musica. Ti avevo scritto su Telegram. Oh cazzo! Scusami, non sì, l'avevo sì, vista. Sì, ci sta. Ok. Oh mio Dio! Ti parla in un modo che riesci a sentire solo tu. Ok. Ti parla con la voce della signora, dura una frazione di secondo questa cosa. Ok. E il libro ti chiede: chi è veramente l'uomo con voi che non ha ancora parlato? Il nostro professore. Perché? Perché ha una forza spirituale che non ho mai visto prima. Chi sei tu? Sono la sacerdotessa di Diru. La persona che è davanti a me o qualcun altro? Esatto, conta che sei tipo frozen in time mentre succede sta cosa. Ok, Sì, perfetto. ok. Esatto, sto usando un trucchetto per poter comunicare istantaneamente senza che gli altri se ne accorgano. Cosa ci guadagno in cambio delle informazioni che vorresti? Sopravvivrai. Mi sembra che la cosa che stai per andare a fare non avrà buone conseguenze per te. Perché dovrebbe avere brutte conseguenze. Perché stai giocando con poteri che non comprendi. Perché io e non tutti gli altri. Mi sembri l'unica persona razionale lì in mezzo. E forse un po' di solidarietà femminile. Mi fa sorridere. È una persona particolare. Sapeva di appunto un tempio sepolto e di una certa connessione con esso e voleva capire se esistesse ancora. A quanto pare ha uno scopo. Se ti dicessi che Diru esiste, Non mi stupirei. che mente aperta, la gente che viene qua raramente crede agli dèi. Io sono una. Io ci credo perché l'ho visto, uno non l'ho visto, non so se Come? tu hai abbastanza informazioni. Sono d'accordo. Se dovessimo incontrarci in altre circostanze. Voglio farti un dono. È una parola, una frase, parola d'ordine. L'illimitata ci ascolta. Dimmela se Qual dovessimo rincontrarci e io saprò. Io è il tuo nome? sono la sacerdotessa. Aspetta, Clasta. Sì, Clasta con la K? come cazzo ti pare. Ripetimi la divinità che non ho Diru ricordato. Apeira. Ok. Diru, cioè, Diru ha sempre il nome di una città. E si interrompe sta cosa e riparti. Proprio Ok. Sadelle. Scusate. Wow! Oh, che tempismo! Perché? Grandissimo host. Ah, ok. E che è tornato anche host Sì. contemporaneamente. Figata. E boh, in realtà voi non vi siete accorti di niente, quindi se Mif non dice nulla, non è successo nulla per voi. Semplicemente era un po' startled dal fatto che questa gli ha passato un libro. Non è successo nulla. Perfetto. È buio pesto oltre la porta e lei non vi dà Sì, alcun. scusate, il MIF si tiene il libro? No, lo O riprende glielo ridà? quando. Ah, ok, c'era posto. Sì. Domanda molto stupida da farti, Bianici. Ma mi pare cieca. La signora? Alla fine. Ha sicuramente osservato bene ciascuno di voi. Cioè, Ah, la spilla di ok. Sì. Lieto l'ha guardata dritta. Sì, mi ha riconosciuto per i capelli rossi, quindi Esatto, ha detto anche quella cosa lì. no, sì, ma tipo non intanto il fatto che non ci vede, ma il fatto che i suoi occhi non ci vedono e ci vede magari con un altro modo. È No, molto truccata, però gli occhi non sembrano avere niente di particolare. perfetto. Comunque, l'area che vi sta mostrando c'è una scalinata in effetti che scende ed è buio pesto, cioè dopo i primi scalini che sono illuminati dal tempio, è buio. Si è bloccata la cam. Ok. Lieto, riesci a fare un po' di luce? Alzo le spalle, a meno che tu non voglia un vulcano. Ah, che stigma di da 4 soldi. Domanda, Biani, cioè, se io consumo un mana penny, ho una durata di un po' di tempo? Sì, mi pare che ce l'abbia proprio scritto. Dammi un attimo. Sto Sì, puoi leggendo fare anche. l'elemento sacro per creare luce. Non dura per un'ora, ma dura un pochetto. Allora a questo punto spendo un malapenny, adesso me lo tolgo. Fa passione tormentata. È la prima volta che Crono vede sta cosa, tecnicamente. Cronos. Scusate. Sì, che vede che fa il coso della moneta. Ti osserva mentre lo fai, ma se ti ricordi aveva già provato lui a usare la moneta. È vero. Quindi riesce a mascherare benissimo la sua sorpresa. I feni, cioè. Eddie, ci sei? Sì, sì, okay. Ci sono. Benissimo, scusami. E perfetto. Hai un po' di luce che, cioè, non vedi fino all'orizzonte, però vedete abbastanza da riuscire a camminare. E quando passate, la signora chiude la porta. Quindi rimanete in questa scala discendente da soli. Da soli, vai, voi cinque. Una tipa strana, vero? Commenta Cronos. Come mai lo dici? Un modo di fare molto sicuro di sé. Non lo so. Strano che una donna ai tuoi tempi fosse sicura di sé. E mi fa... È quello che ha detto. Sì, ma non solo. Mi sembra di capire che le persone di chiesa nel vostro mondo siano bistrattate o comunque poco importanti. Lei invece sembra avere una certa valenza sociale. Sì. Probabilmente appunto, è effettivamente un commerciante, avrà molti contatti e le interesserà mantenersi aggiornata. Si possono ammazzare gli dèi, ma non il dio del commercio, eh? No. Il denaro muove la nostra società. Se da voi era la fede, qua funziona in modo diverso. Sentite anche voi questo odore? Non sentite un cazzo? È lo sciamame di prima, però. Ok, se non sentite niente significa che è magico. Ci stiamo avvicinando, evidentemente. Ma la sacerdotessa è con noi oppure... No, non è rimasta fuori. Okay. Ha chiuso la porta e vi ha lasciato andare oltre. Lì vedete che prima magari di andare in avanti si guarda un altro po' indietro, come se stesse pensando, e poi dice, faccio strada. Prego. Ah, cioè, ha la luce in mano lei, quindi... Sì, sì. E hai proprio il manapenny che fa luce. Quindi riesci a vedere quanto è consumato, da che percentuale del manapenny è piena o vuota. L'interno di questa zona è estremamente spoglio. Le prime lastre erano di marmo o comunque di un materiale bianco. Man mano che scendete diventano sempre più scure e a un certo punto diventa terra. Cioè, la scalinata è scavata nella terra e prosegue dritta, non scende più. Ditemi se volete fare qualcosa. No, vado giù diretto. Prego, dopo di voi. Anch'io. Vabbè, paura di evocare... No, è che ci vedo poco. Non puoi inciampare. Fai luce più avanti, lancia quella cosa. Mif lo lancia. La monetina salta, fa il suo bel salto per il lancio, rimbalza un paio di volte, rotola e cade su un lato, illuminando una struttura bianca di marmo. Odio questa cosa, da morire. La skip e basta. Sì, no. Sì. Non ce la faccio. Sponsorized by... Struttura di marmo bianco parzialmente sprofondata nella terra, piena di crepe, cioè rovinatissima, proprio conciata male. Dovrebbe essere di forma quadrata. Rispetto a voi è ruotata di 15-16 gradi, comunque non è allineata col modo in cui siete arrivati. E ci sono delle incisioni sull'esterno, ma non si capisce bene cosa siano, specialmente perché metà sono fuori dalla terra e metà no. è questo quello che stavamo cercando? Sembrerebbe uno di loro, sì. Quindi è parte dell'indovinello? L'indovinello dovrebbe essere all'interno. L'entrata sembra essere coperta di terra. Ci sono delle incisioni nella terra, ha detto. Sul muro che vedete ci sono delle incisioni, però il muro è per metà sottoterra. Quindi riesce a vedere metà incisione e sono simboli geometrici, ma vedendone solo la parte in cima è come cercare di capire un testo in un'altra lingua in cui c'hai solo metà delle lettere. Ok. Io ho un martelletto. E una spazzola di ferro. Quindi mi metto a... Se non è troppo lavoro, mi metto un po' a scavare alla base del muro per vedere se riesco a rivelare un po' le incisioni. Allora, più o meno riesci a farlo e vedi che la prima parte, la prima incisione che riesci a pulire è chiaramente un triangolo rovesciato. Ok. Però continua. E la parte sotto invece dovresti proprio scavare. Le altre incisioni, anche queste, uno è un quadrato, le altre non si capiscono, è veramente troppo poco. Inoltre è danneggiata la struttura, quindi alcune incisioni non si capisce se sono incisioni o se sono crepe particolarmente geometriche. Cronos, ti servono a qualcosa queste? Vale la pena continuare a scavare? No, credo che la cosa importante sia entrare. Guarda lieto e dice: mi sembra che tu te la cavi con questo genere di cose. Sure. Sopra e sotto, in che direzione dobbiamo andare qua? Credo si scenda. Ok, sai di quanto? 90 centimetri. Ok, pensavo di più. Compare un buco di 90 centimetri nel terreno. Tre mana spesi bene. Ora, devi stare davanti per fare sta cosa. Sì. Gli altri si mettono tutti dietro. Quindi, preferite che lo racconto a Lieto in privato o lo dico a tutti, ma sapete che se lui non ve lo riporta non lo sapete? Ma dillo qua, cioè... Va bene? Sì. Perfetto. Quando si forma il buco, c'è ancora la luce del mana penny e quella che hai fatto te col vulcanino. Che illumina l'interno. Quindi tu per un paio di secondi hai una visione molto chiara dell'interno, che è un cubo. Sembra quasi perfettamente cubico. Okay. Al centro di questo cubo c'è un altare quadrato, a base quadrata, con delle incisioni. Quelle dovresti essere più vicino per capire cosa sono. I tre muri che vedi, davanti, a sinistra e a destra, hanno dei... bassorilievi è una parola grossa, però comunque delle figurine scavate nella roccia che formano delle cose. Una sicuramente è una clessidra, cioè vedi ad occhio nudo che quella è una clessidra. Le altre dovresti spenderci più del tempo che hai a disposizione per capire cosa sono. Ci sono delle persone, insomma, è un po' più fumoso. Okay. Te lo dico perché appena hai finito, Cronos ti mette la mano sulla spalla e aspetta una tua reazione. Prego. Ottimo lavoro. Ti dispiace se entro io per primo? Direi di no. Ti fai da parte? Per farlo passare, sì. Però, cioè, voglio vedere cosa fa, quindi... Ok. Vedi che lui è comunque più alto. Cioè, il buco va in così. Quindi per entrare deve calarsi in qualche modo. Per farlo, lui fa un passo in avanti, alza il braccio, si appoggia il braccio a quello che è la parte superiore dell'entrata. Appena lo tocca, per il suono, battete gli occhi per una frazione di secondo. Cioè, proprio è presente quando c'è un suono e chiudi gli occhi un istante, cioè dura veramente un niente. Quando riaprite gli occhi... siete davanti al tempio di Gelos, a Kainoe. È brutto tempo, c'è un forte vento che vi viene addosso. Avete fame? E Cronos? Lieto è vestito in modo diverso. Ma che vestiti ho addosso? Hai la tua armatura di cuoio. Che merda! Ok. Hai molto più mana di prima. Oh. È mattina? È mattina. Il mio ditino prima di metallo? Com'era stamattina? Cioè, differente. È prima del fight? E... no, siete fuori dal portone. Quindi siete già usciti. Ah, ok. Siete voi, già voi quattro. Sentite che mi fa di nuovo. Ancora? Porca puttana. No. Significa che devo mangiare di nuovo. Riavete i soldi che avevate speso. Ne avevo 28. Ovviamente Cronos non è lì con noi. No. Ovviamente. Ok, conviene dopo... andare al tempio. Prima o dopo la scazzottata? Dopo. Ok. Già avete okay. I segni del fight. Conviene andare al tempio. Andiamo velocemente, subito. Anche se non credo servirà molto. Subito, cioè vedete che proprio Miff inizia a fare un po' di jogging svelto. Lei che ha fatto le scale con molta attrezzatura. Aspetta, qualcuno mi spiega cosa sta succedendo di preciso. Un attimo fa eravamo da un'altra parte. E siamo tornati indietro nel tempo. Spoiler? No, non è la prima volta che succede, oltretutto. Sono le abilità di... vabbè, Arva per primo e ovviamente di Cronos. Okay, e probabilmente che si sia alterata. Sì. Non so se si siano alterati i fatti. Spero di no. Vado all'edicola, vedo se c'è l'edicolante, se ha un giornale di oggi. Sì, e c'è la data di oggi ed è lo stesso giornale che avete già acquistato. Ok, io lo ridò indietro allora, grazie. E me ne vado. Anzi, ti dice proprio di nuovo? Di nuovo? Volevo essere sicuro che non ci fosse qualche errore. Sono dagli altri, dico... il giornale è lo stesso, non ha cambiato niente. Ottimo, perfetto, dobbiamo andare. Vedete che è un po'... mi fa un po' un edge. Tipo... andiamo, adesso. Io... Adone, mentre andiamo, però vuole chiedere a Miff, dice: hai idea di cosa potrebbe aver fatto? O sai qualcosa in più rispetto a noi? Quella volta che ho incontrato Arva, dopo aver risolto il puzzle, l'enigma che ci ha posto davanti, abbiamo avuto una scelta. Parlo al plurale perché c'era anche altra gente. E... abbiamo dovuto scegliere. Hai presente che è deragliato un treno? Ho presente che è deragliato un treno? Direi di no. Sì, avevi letto il giornale quando eri nel bar. Ah, ok. Dico, sì, ho presente. Ecco, io ero su quel treno e nella linea temporale, mettiamola così, che ho vissuto io, tutta la gente del treno è morta. Però... ciò che sappiamo adesso è che non è più morta. In cambio abbiamo permesso ad uno stronzo di vivere e fare ammenda ai suoi errori. Quindi ho paura che magari qualcosa sia effettivamente cambiato. Probabilmente non troveremo più Cronos dove l'abbiamo trovato la prima volta. Per questo voglio andare là. Andiamo. Tutti d'accordo? Tutti d'accordo, penso. Ah, e l'ultima cosa. Tira Adone un pochino da parte. Fa andare avanti okay. Gli altri, comunque, e vedi che ti sussurra. La donna ha percepito l'importanza di Cronos. Col libro mi ha parlato. Mi ha detto di fare attenzione, ma soprattutto mi ha detto che se ci saremmo incontrati un'altra volta, di dirle un certo tipo di frase. Quindi quando entriamo parlo io. D'accordo. Lascio fare a te allora. Andiamo in ordine. percorrete gli stessi passi. Ora, io dubito che voi vi ricordiate le persone che c'erano in giro in quel momento, quindi per voi è una strada, potrebbe essere la prima volta che la attraversate. Vi ricordate invece le cose strane, quindi vi ricordate che passando vicino alle mura esterne della città c'è un gruppo di tre senza tetto che abusano di sostanze. Sta canzone ci sta, ci sono i senza tetto pazzi, va benissimo. E stanno cantando una canzone dissonante, strana. Li volete ignorare? Volete fermarvi a parlare? Ignoro. Io mi avvicino e gli chiedo: ci siamo già visti? Uno dei tre, sono una donna e due uomini. Uno degli uomini dice: un filo rosso collega tutti, infinitamente, per sempre. Tutti ci siamo già visti, tutti ci vedremo. Ok, questo non serve un cazzo, sto anche muovici avanti. Andiamo, Leto, spediti. La bestia vi osserva da lontano, dall'alto! Sì, sì, certo, ci vediamo domani, ciao! Non è neanche questa canzone della mia playlist, però... Ok, questa sì. Questa sì, questa è. Però non era il momento giusto di playarla, quindi... 50% direi. Dai. E il secondo evento, se vi ricordate, era il ponte. Mm-hmm. Poco prima del vostro arrivo, anzi insieme a voi, visto che siete andati più veloci della prima volta, passa il treno alla vostra sinistra. Un bambino sul treno vi fissa, una bambina. E c'è quel piccolo ponticello laterale sul quale passare. Dovrete dirmi l'ordine con cui passate. Se abbiamo lasciato andare avanti Nibel e Lieto, credo che io e Mifa siamo gli ultimi. Lo notate tutti questa cosa? Nell'acqua emerge un topo ragno gigante con i tentacoli sott'acqua. Ah, il topo ragno gigante. Che vede Nibel, aspetta perché c'ha la stessa idea. Che vede Nibel e si immerge nell'acqua e nuota velocissimo via. Se vuoi sparargli comunque puoi, ma è sott'acqua. Mi sparo ugualmente. T10, buttiamo via i proiettili così. Generalmente non scappano così dalle persone, curioso. Si ricordano? Tre lo missi, fai un buco nell'acqua. Tardo! Strano. Che strano. Si ricordano? Sì, sì, sì, ci siamo riconosciuti io e il topo ragno. Proseguite, giusto? Cioè, non volete fare altro, immagino. Sì, sì, andiamo. È andata tanto così più veloce del previsto questa sessione. Era quasi perfetta. Proseguite lungo la strada attraverso quello che sembra un bosco, che vi avevo già descritto, eccetera, finché non sbucate nel punto esatto in cui avete... Cioè, volete andare dove avete incontrato Crono la prima volta o su per il tempio? Tempio. Ok. Se non altro buttare un occhio anche dove l'avevo incontrato. Come volete, scegliete però. Non ho scelto... andare a vedere dove l'abbiamo incontrato prima. Andiamo allora. Che okay, era un avatar del dio del tempo, però non è detto che non sia influenzato ancora pure lui dallo scorrere del tempo. Magari non è qualcosa che ha deciso di fare lui. Possibile. Ok, quindi tutti e quattro d'accordo di andare nel punto in cui lo avete incontrato la prima volta. Va bene. Possiamo dividerci anche volendo. Come volete, scegliete voi. Tanto avete il tempo per decidere mentre correte. Se Mif vuole andare dritta al tempio, nel caso la possiamo raggiungerla. Sì, io andrei al tempio. Allora io faccio una deviazione, vado a vedere se si trova al posto dove l'abbiamo incontrato e poi vi raggiungo. Ah, ok, cioè Mif va al tempio, Nibel va al punto dove l'avete incontrato. Adone? Andare al tempio. Ok, e mi manca Lieto. E io vado al dove abbiamo incontrato la prima volta. 2-2. Yes. Vi faccio dopo perché devo finire col cliffhanger. Perfetto. No, faccio prima te. Ok. E... arrivata alle alla scalinata, che è esattamente come ve la ricordate da 30 secondi fa, scalini molto alti, molto faticoso. La fate più velocemente che potete, ma non potete farla troppo velocemente perché il fisico è quello che è. Arrivati in cima, sudati, marci, persi, distrutti, esausti, avete la stessa visione che avete visto la prima volta. Mi rollate un D10 entrambi? Sì. Madonna, frate, queste musiche. Che paura. Mi rollo di nuovo. Sì. È percezione. E è un 10, quindi, più la tua percezione, che è... adesso guardo... 4. 14, direi che basta. Adone quanto aveva, per curiosità? Di? Percepire... vabbè, avete fatto 10 e... 14 e 10. Basta, sì, superate entrambi. Notate, cosa che non avete visto la prima volta... che nonostante sia brutto tempo, c'è esattamente un punto, un angolo nel mare, dove non ci sono nuvole. Questa cosa, se c'era anche prima, non ci avete fatto caso, ora la state notando. E questo punto va nella direzione di un'isola. Ok. Ok, come vale. Se... non vuoi fare un roll di geografia? Come vuoi. È un'isola. Di un'isola a sud-est... odio. Dai di geografia 3. Regola 1 del master, mai far rollare se non vuoi che abbia successo il vabbè, test. Amo, lascia stare, non importa. No, perché io so benissimo che realisticamente è... non penso che Adone lo sappia. Sì, è più quello il problema. Comunque allora puoi ricordarti, farti un appunto sugli appunti. Ok. Che è un'isola a sud-est di Apeira. Ok. Quante ce ne saranno? Appunto. Quindi ti puoi appuntare che appena c'è un Atlante davanti lo puoi andare a vedere. Sì, perfetto. E boh, niente, ti colpisce sta cosa qua. Il resto dell'area è abbastanza identico a come l'avete lasciato. Ok. Anzi, visto che avete fatto degli ottimi tiri, il cestone delle offerte è più pieno di prima. È l'unica differenza. Entrate? Entrate dall'entrata sì. principale o dal punto più vicino? Dall'accesso più vicino? Penso dall'accesso più vicino. Perfetto. Sì, della fai. La donna è nella stessa posizione in cui l'avevate incontrata la prima volta. Sta leggendo lo stesso libro realisticamente. Solo che ora entrate da un lato e quindi ce l'avete in faccia. Cioè sta guardando già nella vostra direzione. Biff fa un cenno di saluto con la mano e le fa: in caso ci fossimo incontrati di nuovo, mi hai chiesto di dirti una frase. L'illuminata ci ascolta. Un sorriso, uno smirk assurdo le compare in faccia. Adone, visto che me l'hai detto prima, noti che i suoi occhi sono strani. Ecco. Come se non avesse l'iride. Cioè ha la pupilla ma non l'iride. Ok. Cioè il nero e il bianco e basta. Sì. Sapevo che sarebbe arrivato un segno divino prima o poi. Qual è il tuo nome? Chi sono io? Sì. Biff. Stand out. Ci siamo già incontrate. In sì, che occasione? Giusto. Guarda, Biff guarda Adone e fa più o meno nella stessa occasione questa. Solo che ero entrata dalla porta principale di questo tempio si ed gira. Eravamo in tre persone in più. Uno abbastanza particolare. Si gira verso la porta principale, si rigira verso di te e dice: strano. È per caso giunta la mia ora? Di cosa? Una persona che conosce i miei pensieri più segreti mi viene a trovare. Un segno divino, e forse è il momento che la mia vita è giunta al termine. No, non è... Non siamo qua per ucciderti. Ah. Siamo qua per chiederti una mano. Una mano? Sì, un aiuto. Sì. Sì. Con cosa? Allora... Nelle circostanze in cui ci siamo incontrate precedentemente, appunto, ti ho detto che eravamo in più persone. C'era quest'altra persona particolare di cui tu ti sei preoccupata e mi sei venuta a dire di fare attenzione, che probabilmente indica il muro dove ci sarebbe la porta. Addentrarsi là dentro sarebbe stato un rischio molto grande. C'è un tempio sotto, entrambe lo sappiamo bene. Vorrei tornare giù. Casta su se stessa una forma di antimagia. E dice: non mi stai leggendo i pensieri? Non sto facendo nulla, giuro. Sì, sì, era un'affermazione. Dovete tornare laggiù? Sì, imperativo. Sembra una cosa urgente. E non ho motivo di dubitare. E sia... Si alza in piedi. Grazie mille. E rifà strada verso quel punto. Rifà il movimento. Apre la porta. Prego. Arriveranno altre due persone più tardi. Un uomo molto alto con i capelli rossi e un uomo altrettanto alto con la pelle molto scura. Vabbè, altrettanto alto? Magari no, però alto. No, per me sono giganti, dai, vaffanculo. E sono i nostri compagni. Sai anche dirmi se arriverà qualcun altro? Miss sorride, fa, di quello non ne ho la minima idea. Sai com'è, quando il tempo si rivolge su se stesso, certe cose possono cambiare. Non ho idea di cosa tu stia parlando. Lascerò la porta aperta se è questo che vuoi. Grazie. Mi sto fidando di te, ma non per questo devi pensare che non abbia un prezzo questa cosa. So già come ripagare. Affascinante. Scendete le scale. È buio pesto. Malapenny. Scalino dopo scalino, notate che l'area è pressoché identica a come l'avete vista un secondo fa, ad eccezione del fatto che incastonate lungo tutta la superficie del muro ci sono delle assi di metallo che non ricordate. Sembra che ci siano proprio degli spuntoni che vengono verso di voi man mano che scendete. E poiché vi si vede solo la punta, è difficile capire come siano fatti. Queste cose coprono i lati sinistra-destra e sotto della caverna, diciamo. Però lasciano comunque un percorso dove potete passare senza farvi del male. E dopo un po', dopo lo stesso tempo, arrivate a un percorso dritto che arriva fino alla costruzione quadrata bianca che avevate visto. Gli stessi simboli. Identici. E okay. Il tempio è altrettanto danneggiato e parzialmente coperto dalla roccia. Qualcosa è cambiato. Ah, qua ci voleva dietro. Hai qualche trucco, Adone? Eddie? Dirmi che si è addormentato. Sono qua. Ok, grande Cat. E appunto, ripeto, Adone, hai qualche trucco per scavare? Io comunque rimango senza mano, giusto, Pjanic? Credo di sì, perché il mana tu l'avevi usato in fight, non dopo. Infatti. Adone, guarda, ci pensa, dice, potrei aumentare le tue capacità, ma dopodiché basta, non avrei più mana per utilizzare altre magie. Ok, allora, tecnicamente io che sono a stregoneria 2, i power ha più effetti, Credo siano tutti sui personaggi. Cioè devi andare a vedere dal... Sì, sì, credo che siano tutti su un personaggio e non su un oggetto. No, no, no, no, va bene, è solo che io ho soltanto quello di paura. Sì, sì, sì. Gli altri me li devo tirare fuori. Sì, dal manuale. Esatto, datemi un secondo. Ma cazzo. Se no, io la taglio anche qua. Cioè, arrivate alla porta e vi fermate. E faccio l'altra scena. Perché volevo capire... Come vuoi. Cioè, perché Miff, volendo, può utilizzare la rabbia per boostarsi. E iniziare a scavare come... qualcuno di posseduto, volendo. Nulla. Oppure scheggia a danneggiare il terreno fino a fare una buca, volendo. Se no, le cariche di vuoto e fa esplodere qualcosa. Cioè, i modi per fare una buca ce li ha, volendo. Ok. Sulle cariche di vuoto le puoi fare esplodere, ma non credo facciano danno agli oggetti. Formati. No, fanno danni sacri. Quindi non fanno danni agli oggetti. Credo di no. Si va di rabbia, allora mi sa che scelgo il mal. Rabbia e Mist si gira verso Dune e fa: fammi quell'incantesimo, non spaventarti. E Mist si casta Emotional Burst. Ok. No, Emotional Power, scusa. Sì. Eddie, confermi? Sì, sì. Perfetto. E niente, vai in Berserk, che lo vedi anche tu. E inizia a scavare furiosamente, con una forza che è totalmente innaturale per una persona alta un metro e mezzo, creando appunto, ricreando l'accesso alla grotta, più o meno come l'aveva fatto Lieto, con molta meno fatica, okay. Al tempio. Okay. Il tempio è impolverato, semisepolto, come se una nessuno venisse qua dentro da secoli. Chissà perché. Già, l'unica differenza è che ora vedete bene le incisioni, i disegni sul muro, però dovete entrare dentro per vederle. Ma penso che Mifio si butti nel momento in cui ha fatto la buca, cioè nel senso... Adone? Io stavo pensando una cosa, ma vai. Posso usare Enhance Ability su di lei per facilitarle lo scavo? E l'hai fatto? Cioè mi stai chiedendo se si può fare? Ah sì, scusatemi. Ok. E la vostra sessione si chiude qua col cliffhanger tagliato. Andiamo dagli altri. Raggiungete il punto più o meno dove vi sembra che avete visto la prima volta il tizio Cronos, attraverso la boscaglia, attraverso tutto. Andate un po' a tentoni, perché comunque non è che lo conoscete così bene sto luogo da potervi orientare nella boscaglia. Però avete un paio di punti di riferimento, il muro delle città, il perimetro della collina. E effettivamente arrivate nel punto in cui lui era appoggiato a un albero. E al posto di dove si trovava lui c'è questa cosa qua, che vi ho messo in chat. Okay. E... What? Ok, una meridiana. Infilzato sulla punta della meridiana c'è una pergamena. Ah, ok. Mi arrivo alla. Devi arrampicarti. La meridiana. Un di 10 è un roll. Un di 10, vai. Uno. Come se il tempo ti remasse contro, ogni tuo passo viene reso tragico dalla sfortuna. Sassi che crollano, il piede che scivola. Fai molta fatica a arrivare in cima. Nibel, vuoi fare qualcosa? Vuoi una mano Lieto? O vado io? Fia! Di sì, grazie. Fia, è friabile. Ma la pietra non fria. Non può né scendere né salire. Di 10. Provo, provo a salire io allora. Arrampicarsi su fisico. Va È proprio maledetto. Sembra... Porca miseria, fria per davvero la Sembra quasi che ci sia una forza divina che vi impedisce di arrivare in cima. Che tu si rompe il cazzo. Spreca un paio di mana per fare una scalinata fino a me. Posso dire che approvo. Cioè, un uso corretto del mana. E... se non funziona anche questa, tocca fare una Baldur's Gate, te lo dico. E... arrivi camminando alla meridiana, che è alta, eh? Cioè, sono 2 metri e rotti di meridiana, è una cosa gigantesca. Devi tendere il braccio per estrarre la pergamena. E... è scritta nella lingua di Nibel, quindi la capisci come una seconda lingua, diciamo. Bene, decentemente. Ai miei, in cima, sulla parte che puoi vedere, c'è scritto: ai miei amici, firmato Kronos. Ok. E va srotolata per poterla leggere. Scendo, torno insieme a Nibel e aiuto a leggere almeno. Com'è la sua lingua, se faccio cazzate. Ok. Nibel credo sia analfabeta. Sai leggere. No, credo che sappia leggere. Okay. Cioè, nel senso, non ha mai letto libri, robe del genere, però sa leggere. Se no, non saprebbe leggere il giornale. No, infatti, cioè, gli serviva per documenti, robe del genere, però... Ci sta, ci sta. Non a livello proficio. Cioè... suo padre probabilmente era analfabeta. Suo padre era analfabeta, okay. Ma... sì, sì, sì. Vabbè, in due ne facciamo uno, se non altro. prendo la pergamena e la srotolo. E vedo cosa c'è dentro ed eventualmente la leggo ad alta voce per sì. La preferite che ve la scrivo e la prossima volta ce l'avete per bene, o che ve la racconto e ve la dico subito? Ce la racconti e poi che ce la scrivi, democraticamente facciamo le primarie su Telegram. Facciamo un bel poll. E... io sono d'accordo con Ica. Mi hai chiamato Fila e mi sono ti giuro, mi perché ho fatto un mix tra Ica e Lieto e niente, basta, è venuta Lila. Fuori la S. Sai come fare Ica? Vuoi che la leggiamo la prossima volta? No, ce la racconta adesso e per la prossima volta ce l'abbiamo scritta. Io sono d'accordo. Esatto. Ok, vabbè, non faccio le primarie del PD. Vabbè, sì. Okay. Questa è la versione breve, quindi. Vi ringrazio tantissimo di avergli dato una mano e delle settimane che avete passato insieme. What? Poi inizia a dire una cosa tipo: so che il ricordo di me sta svanendo e probabilmente non ricordate più nemmeno il colore dei miei occhi. Qualcuno di voi sa di che colore aveva gli occhi? No. Sono stato bravissimo a fare sta cazzata qua. Me la son tenuta da una settimana, è stato fantastico. 2 settimane. Ma quando si fa quello che ho fatto è così. Si perdono alcuni ricordi e se ne conservano altri. Il resto del mondo dovrebbe essere più a secco di noi, che siamo condannati a ricordarci quello che sarebbe potuto essere. Io più di tutti porterò per sempre con me la croce di sapere... quello che abbiamo fatto. Il piano di Nibel non ha funzionato. Mif ha seguito le orme di chi doveva seguire. Mi spiace per la fine che hanno fatto Lieto Adone. No. Alla fine di tutto ho pensato che fosse meglio ricominciare. Alla fine non voglio avere le mani sporche del sangue di così tante persone. Per cosa poi? Peggiorare un mondo che funziona? Migliorare la vita di una persona sola per peggiorare quella di tutti gli altri? No, non è il genere di cose che farei. Questo non è il mio mondo, non tocca a me cambiarlo. È un peso che lascerò a qualcun altro. Non a voi, si spera. Anzi, spero che voi decidiate di abbandonare questa idea idiota che avete in testa e vivere una vita più semplice, fatta di piccole soddisfazioni. nessuno verrà a cercarvi a farvi del male se non sarete voi i primi a... beh, fare del male agli altri. Me ne andrò verso sud. C'erano leggende sul fatto che c'è un luogo che accoglie chi non ha più un posto nel mondo, nell'estremo sud. Vi prego di non venirmi a cercare. E state lontani da quella dannata isola. Firmato. Kronos. E niente. Tocca andare sulla cazzo di isola adesso. Veramente, tocca andare sulla cazzo di isola. Madonna, abbiamo giocato, oggi giocato la campagna con noi. Eh? Ho giocato la campagna con noi, esatto. Eh sì. Esatto. Ci ha spoilerato il finale di... Ha fatto il bad ending. Sì. Good ending, di punti di vista. Ha fatto uno degli ending. Sì, sì, sì. Esatto. Gli sorprende che Nibel fosse ancora vivo.